ad alta voce. Elia Shilton legge Anton Chekhov. Il viaggiatore di prima classe. Un viaggiatore di prima classe, che aveva allora pranzato alla stazione ed era lievemente brillo, s'adagiò sul sedile di velluto, si stirò dolcemente e prese sonno. Dopo aver dormito non più di 5 minuti, sogguardò con gli occhi lustri il suo vis-à-vis, fece un risolino e disse: «Mio padre, di felice memoria, aveva caro che dopo il desinare le donne di casa gli grattassero i calcagni. Io son tutto il suo ritratto, con la differenza però che ogni volta dopo desinato mi gratto non i calcagni, ma la lingua e il cervello. Vado pazzo, riconosco il mio peccato, per far 2 ciarle a stomaco pieno. Mi permettete di chiacchierare un po' con voi? Onore mio!» acconsentì il vis-à-vis. «Quando ho fatto un buon pranzetto, m'è sufficiente il minimo appiglio perché mi si infilino nel cervello certe idee di indiavolata grandezza. Per esempio, poco fa, io e voi abbiamo veduto al buffet 2 giovanotti e abbiamo sentito come uno dei due si congratulasse della notorietà dell'altro. Mi congratulo, diceva, voi avete già raggiunto la notorietà e siete sulla via di conquistare la gloria. Attori evidentemente o microscopici gazzettieri, ma non si tratta di essi. E è che ora, caro signore, io sono tutto preso dalla questione che cosa precisamente occorra intendere per gloria o per notorietà. Qual è il vostro parere in proposito? Pushkin definiva la gloria una toppa vistosa sul cenciume e tutti noi la concepiamo alla pushkiniana, vale a dire più o meno soggettivamente, ma nessuno ha dato ancora una chiara, logica definizione di questa parola. Chissà quanto pagherei per averne appunto una definizione. Ah, che scopo ne avete tanta necessità. Vedete, domani che noi si sapesse cos'è la gloria, forse ci diverrebbero noti anche i mezzi di raggiungerla», esclamò il viaggiatore di prima classe dopo un momento di riflessione. «Voi dovete notare, signore mio, che quando io ero più giovane, con tutte le fibre dell'anima mia ho aspirato alla notorietà. La popolarità è stata, diciamo così, la mia follia. Per essa io ho studiato, lavorato, passato le notti senza dormire, lasciato il boccone a mezzo e perduto la salute. E salvo errore, per quanto il giudizio mio può essere spassionato, c'erano in me tutti i dati necessari per raggiungerla. Innanzitutto, di professione, io sono ingegnere. In vita mia ho costruito in terra di Russia 2 decine di ponti grandiosi, ho provveduto 3 città di acquedotti, ho lavorato in Russia, in Inghilterra, nel Belgio. Ecco, in secondo luogo ho scritto un buon numero di monografie sui temi di mia competenza. In terzo luogo, caro signore, fin dalla tenera infanzia io ho sofferto d'un debole per la chimica e dedicandomi nelle ore d'ozio a questa scienza ho scoperto dei procedimenti per ottenere alcuni acidi organici, di modo che voi troverete il mio nome in tutti i trattati di chimica pubblicati all'estero. Nel frattempo ho sempre continuato a ricoprire il mio impiego, pervenendo al grado di consigliere di stato effettivo e sono in possesso di uno stato di servizio illibato. Non starò adesso ad affaticare la vostra attenzione con l'enumerazione dei miei meriti e delle mie imprese. Vi dirò soltanto che ho fatto molto più di tant'altri che sono persone note. E la conclusione qual è? Ecco che ormai sono vecchio, che sto lì, si può dire, per crepare e di notorietà ne ho tanta quanta quel cane nero là che corre lungo il terrapieno. Come fate a dirlo? Può darsi che una certa notorietà l'abbiate. Sentite, ne possiamo fare subito la prova. Ditemi, avete mai udito il cognome Krikunov? Il vis-à-vis alzò gli occhi al soffitto, rifletté un po' e si mise a ridere. «No, non l'ho udito mai», rispose. «È il cognome mio. Voi siete un intellettuale, un uomo d'una certa età, eppure non una volta mi avete sentito nominare. È una prova convincente. Evidentemente, nei miei tentativi di raggiungere la notorietà, io ho agito in tutt'altro modo da quel che avrei dovuto fare. Io non conoscevo i mezzi necessari e, volendo acchiappar la gloria per la coda, non ho imbroccato la via giusta. Ma Quali sono dunque codesti mezzi necessari? E chi diavolo volete che lo sappia? Voi direte forse il talento, la genialità, l'originalità. Nemmen per sogno, signore caro. Parallelamente a me han vissuto e han fatto la loro carriera persone che in confronto di me erano vuote, insignificanti o addirittura ignobili. Han lavorato costoro 1000 volte meno di me. Non sono mai uscite dalla loro pelle, non hanno mai brillato per talenti particolari, ma guardate un po' a loro. I loro cognomi ad ogni piè sospinto ricorrono sui giornali e nelle conversazioni. Se non vi è venuto a noia ascoltarmi, chiarirò meglio la cosa con un esempio. Alcuni anni fa io costruivo nella città di Kappa un ponte. Dovete sapere che la noia in codesta pidocchiosa Kappa era tremenda. Se non fossero state le donne e le carte, credo che io avrei dato fuori di cervello. Orbene, ne è passata dell'acqua sotto i ponti. Avvenne che, per colpa della noia, stringessi relazione là con una chanteuse. Il diavolo come sarà stato, tutti quanti andavano in estasi per codesta chanteuse, mentre a parer mio, come dirvi, non si trattava che d'un banalissimo dozzinale temperamento da strapazzo, come ce ne sono tanti, una ragazzaccia vuota, capricciosa, ingorda e per giunta anche stupida. Faceva un gran mangiare, un gran bere, dormiva fino alle 5 della sera e oltre questo, salvo errore, nient'altro. Passava per una cocottina e tale era infatti la sua professione. Quando però volevano esprimersi a suo riguardo in modo letterario, allora la chiamavano attrice e cantante. Io in precedenza ero stato un grande appassionato del teatro e perciò questo giochetto da imbroglioni di darle il nome d'attrice, sa il diavolo quanto mi irritava. D'esser chiamata attrice, ossia pure cantante, la mia chanteuse non aveva il minimo diritto. Era un essere senza ombra di talento, senza nessuna sensibilità, direi addirittura miserevole. Per quanto mi rammento, cantava in modo stomachevole e tutto il fascino della sua arte consisteva nel fatto che dimenava al momento opportuno la gamba e non si confondeva quando le entravano nel camerino. I vaudeville che essa sceglieva erano di solito quelli tradotti da cantarsi e tali che dessero modo di pavoneggiarvisi in abito da uomo ben attillato, in una parola robaccia. Bene, statemi attento ora. Come ancora ricordo, fu inaugurata con solennità l'apertura del traffico sul ponte di nuova costruzione. Ci fu il Tedeum, ci furono discorsi, telegrammi e tutte le cose del genere. Io, sapete, ronzavo sempre intorno alla mia creatura e di momento in momento temevo che il cuore mi scoppiasse da quanta era la mia agitazione d'autore. Acqua passata, come ho detto, in fare il modesto sarebbe fuor di luogo, vi dirò dunque, senz'altro che quel ponte mi era riuscito magnifico. Non era un ponte, ma un quadro, un desio. E provate un po' a non essere agitato quando all'inaugurazione c'era la città intera. Ecco, pensavo, ora il pubblico pianterà addosso a me tutti quegli occhi. Dove andrò io a nascondermi? Ma inutilmente, caro signore, io mi davo tanta pena, ahimè. A me, eccettuati i personaggi ufficiali, non ci fu nessuno che rivolgesse un filo d'attenzione. Stanno là in folla lungo la riva, tengono fisso lo sguardo come tanti montoni al ponte, ma di colui che questo ponte ha costruito non sanno che farsene. E che il diavolo se li portasse quanti erano, da quel giorno vi confesso che ho preso in odio cotesto nostro rispettabile pubblico. Ma seguitiamo il discorso. D'improvviso ecco che il pubblico si agita, sui visi appare un sorriso. Le spalle entrano in movimento. Si vede che si sono accorti di me, pensai io. Pie illusioni, guardo e attraverso la folla vedo avanzare la mia chanteuse seguita da una scorta di imbecilli e sulla scia di codesta processione corrono ansiosi gli occhi della folla. Cominciò un sussurrio di migliaia di voci e la tal dei tali, incantevole, affascinante, e a questo punto anche io fui notato. Due succialatte che non so chi fossero, probabilmente locali amatori dell'arte scenica, mi diedero una sbirciata, si guardarono tra loro e bisbigliarono: quello lì è il suo amante. Che ne dite? Eh? Ma non basta, un brutto omiciattolo in cilindro, con una barba di parecchi giorni sul grifo. Durò un pezzo a scalpicciarmi intorno finché mi si voltò con queste parole. Sapete voi chi è quella signora che passa lungo l'altra riva? Quella là è la tal dei tali. La voce là al di sotto d'ogni critica, ma la padroneggia alla perfezione. E voi non sapreste dirmi, interrogai a mia volta il brutto biciattolo, chi è il costruttore di questo ponte? Veramente non lo so, rispose l'omiciattolo, sarà uno dei tanti ingegneri. E chi è stato, gli chiedo, che nella vostra cappa ha costruito la cattedrale? Ah, anche questo non saprei dirvelo. Io insistetti chiedendo chi fosse considerato a cappa il miglior pedagogo, chi il miglior architetto, e a tutte le mie domande il brutto omiciattolo rispose che non lo sapeva. Ditemi allora, vi prego, chiesi a mo' di conclusione, con chi convive questa cantante? Ah, con un certo ingegnere Krikunov. Ebbene, caro signore, che ne dite, dunque? Ma proseguiamo ancora. Menestrelli e cantastorie ora non ci sono più al mondo e la notorietà si acquista quasi esclusivamente per mezzo dei giornali. Il giorno seguente a quello dell'inaugurazione del ponte, prendo con ansia il locale Messaggero e vi cerco dentro qualche riferimento alla mia persona. A lungo scorro con lo sguardo tutte e quattro le facciate e finalmente, ecco qua, evviva, incomincio a leggere. Ieri, con un tempo magnifico e tra un enorme afflusso di popolo, alla presenza di Sua Eccellenza il capo del governatorato di X e di tutte le altre autorità, ha avuto luogo l'inaugurazione di un ponte di nuova costruzione, eccetera, eccetera, e verso la fine, all'inaugurazione ha presenziato, fra gli altri, raggiante di bellezza, la beniamina del pubblico di K, la nostra ben dotata artista tal dei tali. Inutile sottolineare che il suo intervento ha fatto sensazione. La stella indossava un abito, eccetera, eccetera. Di me non una sola parola, neppure una mezza paroletta. Quantunque possa sembrare una piccineria, ci credete che in quel momento io arrivai a piangere dalla rabbia? Trovai consolazione nel pensiero che la provincia, si sa, è stupida e da essa non si può esigere molto, mentre per ottenere la notorietà bisogna recarsi nei centri intellettuali, nelle grandi città. Per l'appunto, in quell'epoca a Pietroburgo giaceva un mio lavoretto che avevo presentato a un concorso. La scadenza del concorso s'avvicinava. Diedi addio alla città di K e me ne andai a Pietroburgo. Da K a Pietroburgo la strada è lunga e così, per non soffrir tanta noia, io presi uno scompartimento riservato e con me anche la chanteuse. Ci mettemmo in viaggio e per tutta la strada giù a mangiare, a bere champagne e trullalà, ma eccoci arrivati a quel centro intellettuale. Ci arrivai proprio il giorno del concorso ed ebbi, caro signore, la soddisfazione di festeggiarvi una vittoria. Al mio lavoro era stato assegnato il primo premio. Evviva, il giorno appresso vado per il Nevsky e compro giornali assortiti per 70 copeche. Torno in fretta alla mia camera d'albergo, mi allungo sul divano e, cercando di dominare un tremito, mi butto a leggere. Scorro in un lampo uno dei giornali, nulla. Ne scorro un secondo, neanche per sogno. Finalmente nel quarto mi salta agli occhi un annuncio così concepito. Ieri, col direttissimo, è giunta a Pietroburgo la nota artista di provincia tal dei tali. Siamo lieti di rilevare che il clima meridionale ha esercitato un benefico influsso sulla nostra amica. La sua magnifica figura di regina della scena, e non ricordo che altro su questo tono. Molto più in basso, sotto quell'annuncio, era stampato nel più minuscolo ottavo. Ieri, al concorso così e così, il primo premio è stato assegnato all'ingegner tal dei tali. Nient'altro. E per sopramercato avevano perfino alterato il mio cognome. Invece di Krikunov avevano scritto Kirkunov. Eccovi il bel centro intellettuale. Qualche anno più tardi mi trovavo a Mosca. Ero stato chiamato colà da una lettera di pugno del sindaco della città per una questione intorno a cui Mosca, coi suoi giornali, va strepitando da più di 10 anni. Mentre trattavo della questione, tenni sul posto in uno dei musei 5 conferenze a scopo di beneficenza. Parrebbe che dovesse bastare per diventar noto in città almeno 3 giorni, non è vero? Ma, ahimè, su me non fu spesa neppure una parolina da nessuno dei giornali moscoviti. Di incendi, di operette, degli assessori dormenti, dei mercanti ubriachi, di tutto vi si parlava, ma della questione che mi riguardava, del mio progetto, delle conferenze, ne hai ne bai. E quel simpatico pubblico moscovita. Monto sul tram, il carrozzone pieno zeppo di gente, signore e militari, studenti e studentesse, di ogni creatura un paio. Dicono che il consiglio municipale abbia chiamato un ingegnere per quella tale faccenda, dico io a un mio vicino con voce abbastanza forte perché tutto il carrozzone possa sentire. Voi non sapreste come fa di cognome questo ingegnere? Il mio vicino, in atto negativo, tentennò la testa. Il rimanente del pubblico mi diede un'occhiata di sfuggita e in tutti quegli sguardi io lessi «non lo so». «Ho sentito dire che c'è un tale che tiene delle conferenze nel tal museo», incalzavo rivolto al pubblico cercando di attaccare discorso. «Dicono che sia interessante». Nessuno che facesse sia pure un cenno con la testa. Evidentemente non tutti avevano sentito parlare delle conferenze e le illustri signore dal canto loro non sapevano neppure che esistesse quel museo. E questo non sarebbe stato ancora gran cosa, ma figuratevi, signor mio, che tutto a un tratto quel pubblico salta su e s'avventa sui finestrini. Cosa c'era? Di che si trattava? «Guardate, guardate!» mi diede di gomito il mio vicino. «Lo vedete quel brunetto che sta montando su quella carrozza da nolo? Quello è il famoso corridore King!» E il carrozzone intero, accendendosi di fanatismo, cominciò a parlare delle corse che dominavano in quel periodo i moscoviti ingegni. Molti altri esempi potrei citarvi, ma suppongo questi possono bastare. Ora, ammettiamo pure che io sul conto mio mi inganni e che sia un millantatore e una nullità, ma all'infuori di me sarei in grado di indicarvi una quantità di coetanei, persone notabili per talento e laboriosità, morti nell'oscurità più completa. Tutti questi nostri navigatori russi e chimici e fisici e meccanici e grandi agricoltori o che forse sono popolari? Sono noti forse al nostro pubblico evoluto i pittori, gli scultori, i letterati russi? Vecchi cani della letteratura, laboriosi e ricchi di talento, per 30 anni di seguito consumano le soglie delle redazioni, schiccherano Dio sa quanta carta, 20 volte sono processati per diffamazione, nonostante tutto non fanno un passo fuori dal loro formicaio. Nominatemi uno solo dei corifei della nostra letteratura, il quale abbia acquistato la notorietà prima che sia corsa per il mondo la fama che era morto in duello, che era impazzito, che era stato mandato ai lavori forzati, che non giocava onestamente a carte. Il viaggiatore di prima classe parlava ormai tanto di foga che si lasciò cadere di bocca il sigaro e si levò da sedere. «Proprio così!» riprese violentemente. «E a riscontro di queste persone potrei citarvi centinaia e centinaia di chanteuse, d'acrobati, di buffoni, conosciuti perfino dai bambini da latte! Proprio così!» Cigolò la porta ed entrò una sbuffata d'aria. Nel vagone si introdusse un individuo d'aspetto sornione, in giubba a coda, cilindro e occhialini turchini. L'individuo scrutò i posti liberi, fece il cipiglio e proseguì oltre. «Sapete chi è quello lì?» risonò timido un fil di voce da un lontano angolo del vagone. «E NN, il famoso truffaldino di Tula, che deve subire un processo per la faccenda del banco di Ypsilon». «Ecco qua!» rise allora il viaggiatore di prima classe. «Il truffaldino di Tula lo conosce benissimo, ma provatevi a domandargli se conosca Semirazki, Tchaikovsky o il filosofo Salaviov, e vi farà restare con un palmo di naso, una vera sconcezza!» sopravvennero 3 minuti di silenzio. Permettetemi che vi domandi a mia volta, timidamente tossicchiò il vis-à-vis. Voi conoscete il cognome Pushkov? Pushkov? Pushkov? No, non lo conosco. È il cognome mio, confidò il vis-à-vis sopraffatto da un certo pudore. Sicché, dunque, non lo conoscete. Eppure io da ben 35 anni sono professore in una delle nostre università, membro dell'Accademia delle Scienze, autore di numerose pubblicazioni, il viaggiatore di prima classe e il suo vis-à-vis si guardarono l'un l'altro e cominciarono a ridere a distesa. Elia Shilton ha letto Anton Chekhov, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio. Ad alta voce @rai.it